Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Giuseppe Miroglio. Vestire la donna da quattro generazioni. A cura di Anna Marino. Abbiamo a che fare con migliaia, centinaia di migliaia di consumatrici un po' in tutti i posti del mondo, che sono tutte donne. Noi facciamo esclusivamente tessuti ed abiti per le consumatrici femminili, quindi per noi la donna è, come diceva bene lei, al centro del nostro mondo, del nostro universo. Poi oggi in particolare, avendo una catena di distribuzione molto articolata, abbiamo oltre 1500 punti vendita direttamente aperti al pubblico, il nostro contatto con la consumatrice è quotidiano, direi orario. Ogni ora noi abbiamo un contatto molto stretto con la consumatrice e dobbiamo capire cosa vuole, quali sono i suoi desideri e cercare di esaudirla. Giuseppe Miroglio è amministratore delegato del gruppo Miroglio. Porta il nome del fondatore di questa azienda italiana di abbigliamento e di tessuti, nata ad Alba, in provincia di Cuneo, nel 1947, quando appunto Giuseppe Miroglio, figlio di Carlo e Angela, già commercianti di stoffe nell'Ottocento, decide di entrare nella produzione di tessuti di seta e installa i primi telai e diventa una fabbrica. Prima era un piccolo negozio nella centrale Piazza Duomo e oggi un gruppo internazionale. Vanta un fatturato consolidato di oltre 1 miliardo di euro e circa 11.000 dipendenti in Italia e all'estero. È presente oggi in 34 paesi con 59 società operative. La divisione abbigliamento sviluppa in parallelo la propria rete di negozi, giunta oggi a contare oltre 1900 monomarca. Giuseppe Miroglio ricorda da dove è partita questa storia di una crescita esponenziale. Devo dire, un episodio che a me ha sempre colpito è un episodio avvenuto negli anni 20. Faccio una piccola premessa: l'attività, diciamo, della nostra famiglia imprenditoriale, della nostra famiglia, nasce sul finire del 1800, quando mio bisnonno svolgeva l'attività di commerciante con il suo carretto, andava a vendere tessuti e anche altri beni un po' in giro per i mercati rionali. Negli anni 20 invece avvenne un primo passaggio che ritengo importante per due motivi. Intanto fu mio nonno, il figlio maggiore di mio bisnonno, che rilevò l'attività di suo padre, rilevandola anche dai fratelli, quindi in qualche maniera si espose in prima persona e diventò il vero e proprio capostipite delle aziende Miroglio, e lo fece aprendo un punto vendita, un piccolo punto vendita nella piazza principale del paese. Noi siamo di Alba, che alla fine è un piccolo paese. Aprì questo negozio a fianco del Duomo, quindi una location anche abbastanza suggestiva, dove iniziò a vendere il tessuto non più andando, no, dai clienti e nei mercati rionali, ma creando appunto un'attività più stabile, e da cui poi si sviluppò tutta l'attività. Dico che mi ha sempre colpito perché, se vogliamo, l'attività, gli albori dell'attività nascono da un piccolo negozio ed arrivano oggi a una catena che può contare oltre 1500 punti vendita. Quindi mi sembra interessante il passaggio, no, dal piccolo negozio, se vogliamo, di provincia, fino ad arrivare a una catena. Il negozio all'epoca non era un negozio di abbigliamento, era un negozio di tessuto. Venivano a comprare i tessuti le signore un po' da tutte le valli che circondavano Alba, e si facevano fare poi, o li facevano addirittura loro personalmente, oppure si facevano confezionare i capi dalle sarte. Fu un altro passaggio importante nella storia quando nel 1955 mio nonno ebbe l'idea di impiantare una vera e propria fabbrica per realizzare dei capi confezionati in serie. Lui ebbe l'idea guardando un po' cosa succedeva negli Stati Uniti, dove l'80% delle donne si vestiva già con abiti confezionati e preparati, non più quindi sartoriali. In Italia questa era una percentuale che era ancora molto molto più bassa. Curiosamente mio nonno non andò mai in America, ma era una persona molto attenta ai cambiamenti, alle tendenze, e quindi aveva una lungimiranza pur non avendo avuto la possibilità di andare a toccare con mano. Generazione dopo generazione si è giunti ormai alla quarta. Da gennaio 2007 si è avviato anche un maggior utilizzo di manager. La nuova struttura del consiglio di amministrazione del gruppo Miroglio prevede 12 membri, di cui 8 provenienti dalla famiglia e 4 consiglieri indipendenti, ed è presieduto da Carlo Miroglio. La carica di amministratore delegato è ricoperta da Giuseppe Miroglio, mentre le due società, Miroglio Fashion e Miroglio Textile, hanno ciascuna un proprio direttore generale. Questa nuova struttura ha trovato piena attuazione nel corso del 2007, con la separazione delle attività. Giuseppe Miroglio rilegge i passaggi generazionali e fa il punto sul metodo per affrontarli. Nella nostra storia, la storia della famiglia, la storia dell'azienda sono in qualche maniera imprescindibili. L'azienda è sempre stata gestita in prima persona da membri della nostra famiglia e lo è tuttora, e quindi è sempre stato un rapporto di simbiosi molto, molto forte. Indubbiamente un rapporto che però si è dovuto evolvere nel tempo. Ed è questo forse l'elemento più importante che ha caratterizzato l'ultimo passaggio generazionale, quello dai nostri genitori a noi della terza generazione, che sostanzialmente significa passare da un'azienda più di stampo familiare, in cui il membro della famiglia è molto hands on, no? Come si può dire, molto presente in operatività, ad oggi invece un rapporto tra famiglia e azienda, dove la famiglia ha un ruolo molto importante di guida, di indirizzo strategico e anche di in qualche maniera di stimolo molto forte nei confronti del manager, però dall'altra parte cercando di mantenere il giusto equilibrio tra appunto la delega data al management e dall'altra parte la guida strategica data dalla famiglia. Fa parte anche dell'evoluzione naturale di un'azienda. Quando un'azienda raggiunge una dimensione come la nostra, la nostra azienda è un gruppo che fattura 1 miliardo di euro, quindi ha una complessità, una dimensione tale per cui non sarebbe pensabile una gestione diretta su tutto da parte di una persona o di poche persone della famiglia, quindi la delega diventa un elemento fondamentale. Per quello che dico che tutte le aziende, quando raggiungono certe dimensioni, devono per forza evolvere il proprio modello di gestione, modello manageriale. Oggi la filiera del gruppo presenta due società a totale autonomia. Miroglio Fashion, proprietaria tra gli altri dei marchi Motivi, Elena Miró, Caracter e Diana Gallesi, con una rete distributiva di 8.500 clienti multimarca, 1.400 negozi monomarca, 90 outlet e una significativa presenza nei principali department store, Rinascente, El Corte Inglese, Galerie Lafayette, Prenta, Harrods, Karstadt e così via. Miroglio Textile, con 5 stabilimenti produttivi e una rete di oltre 6.000 clienti. Ecco come ci si sente a essere piemontesi nel mondo. Io credo che da questo punto di vista sia importante essere sempre molto attenti al locale. E da questo punto di vista, no, il fatto che viviamo una realtà che è fortemente connotata da delle radici molto forti, una cultura no, tradizionale molto forte, dall'altra parte però ci deve portare ad avere una visione del mondo come un mondo multiculturale. Voglio dire, se noi andiamo in Cina dobbiamo pensare come i cinesi, se andiamo in Russia dobbiamo pensare come i russi, perché io penso che non ci sia un po' finita l'epoca, no, della colonizzazione, quindi di portare una stessa idea in tutto il mondo. Oggi è molto importante una frase, una parola che forse suona abbastanza ormai ripetuta, ma glocal è una parola che per noi è molto importante, proprio perché vuol dire riuscire a portare in qualche maniera a conciliare delle esigenze globali con delle realtà specifiche locali. Giuseppe Miroglio spiega anche qual è stato il messaggio di bilanciamento tra vita e lavoro, metodo che si sono tramandate le generazioni di imprenditori della sua famiglia, e qual è stato il rapporto con l'azienda stessa nei ricordi di bambino, poi nella formazione e nelle passioni fino all'età adulta e agli interessi attuali. Famiglia e azienda nella nostra storia, nella nostra vita, sono sempre stati due elementi imprescindibili. Anche oggi nella nostra generazione non è pensabile separare, no, la famiglia dalla vita, anche perché il lavoro, l'azienda fa parte della nostra vita quotidiana e la permea in maniera così pregnante, così forte, che non sarebbe imprescindibile. Però questo non è un peso, non è uno sforzo che si fa proprio per cercare di stare vicino alle aziende, è una cosa naturale, sarà anche perché uno fin da bambino viene in qualche maniera coinvolto nelle attività aziendali e quindi fa parte dell'educazione, fa parte del modo di essere, ed è un qualcosa che rimane naturale ed viene vissuto più con passione. All'inizio i primi ricordi in realtà non fanno parte proprio della vita aziendale, ma tanti anni fa si usava fare dei viaggi ogni anno con tutti i manager dell'azienda, le prime linee dell'azienda in capitali europee, e lo ricordo sempre con molto piacere perché quelli sono stati i primi contatti con l'azienda, con delle persone che all'epoca sembravano persone quasi inarrivabili perché erano persone che erano considerate decisamente importanti e figure anche in qualche maniera ingombranti perché erano quelle che avevano fatto il bene dell'azienda. Ed è stata forse quella, no? La prima occasione di contatto con l'azienda. Poi di lì sono nate molte altre occasioni, dal periodo estivo, no? Nelle vacanze in cui si andava magari per qualche settimana a lavorare o comunque a dare una mano in azienda, e di lì poi pian piano ci si è inseriti. Io intanto ho sempre considerato l'azienda, la vita in azienda come un punto di arrivo, e quindi ho sempre avuto come obiettivo quello dell'azienda. Per me l'azienda è sempre stata un obiettivo molto concreto, molto, molto importante. E quindi un po' anche la mia carriera scolastica, per dire, piuttosto che la carriera di inizio di carriera lavorativa, sono sempre state orientate in questa maniera. Quindi gli studi erano orientati, io ho fatto economia e commercio proprio per essere più vicini, no, alla vita aziendale. Poi ho fatto un periodo di studi in Inghilterra per avere una conoscenza della lingua inglese, sempre propedeutica alla vita aziendale. Quindi il mio piano, diciamo, di sviluppo, di educazione aveva come obiettivo l'azienda. Indubbiamente il tempo libero non è molto. Quando si hanno responsabilità in azienda, spesso si deve mettere da parte alcune, no, alcune esigenze di tempo libero, perché l'azienda spesso chiama e anche in momenti che tu non puoi programmare. Ci sono certe situazioni, magari di emergenza, per cui devi cambiare i tuoi piani. Quindi è importante avere flessibilità da questo punto di vista. Dall'altra parte, il tempo che riesco a dedicare a un'attività che a me piace molto è quello dei viaggi, che tra l'altro si sposa anche molto bene con il lavoro, perché il mio lavoro mi porta a essere spesso in giro per il mondo. Quindi in qualche maniera è propedeutico a mantenere un allenamento, no, al viaggio, che appunto è propedeutico all'attività aziendale. Per quanto riguarda i libri, a me piacciono molto i romanzi storici, perché mi piace molto, sono curioso io credo che ci siano dei cicli storici, e quindi sapere cosa è successo in passato, cosa è successo anche nel parecchi, cioè, secoli fa e millenni fa, ci permette anche di capire l'evoluzione della storia e quello che potrà essere il futuro. Quindi i romanzi storici sono una passione che ho abbastanza forte. Per quanto riguarda la musica, vari generi, io sono un fan di Bruce Springsteen, che è una mia passione, ma anche altri tipi di musica più rilassante, dalla musica classica alla musica New Age, sono generi che mi piacciono particolarmente.